is I worked so hard with my intellect to write a paper of a magic upset. I'm going in sunset with my feeling. I raise my breath. In my pain, there is a blood refilling when I go volume. And this is my easy crisis. I explain my tears. I explain my fall down. When I rise, I go like a clown with my tears. You, my babies. You, my babies. This is my feeling. This is my hazy. This is my cry. This is my lie. And I go in tear with you with mine. You are mine. You was mine. Now you're mine. You will mine. Yo, my house is a lyrical composes. I draw my paint with my fade in the paper. I made all my loose. I made my tears, I made my words so hard. And I made my hands with my lyric as night. Feeling in this upset. When I was boring, I go to a cigarette and my pipe, and my bank pipe, and my rice pipe. And I go with my mainstream easy feeling freezes. This is my disease's Coronary syndrome. Maybe chose Wikipedia to understand where, what, why my illness. Ladies, bitch, you are a composer. You are my lyrical. Suppose I have a relation in my head. This is my well, this is my well, this is my well. And you fucking don't understand my lyrics. Between myself and you, you are not me and you're not mine. This is my rhyme, it's a lyrical feeling. It's a understand my rise, my disease, my psychiatries, my psychiatries, my psychiatries, my psycho. My psycho don't understand. Heroin is my blood refill. She said me, you are not, you are little baby. You cannot do a stain. Go, go. Go, goodbye. And I'm a cool boy. And I'm a cool boy. It's not the matter. You, so hard to hard work. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. This is my hard work. Ho, ho, my job. Fuck you, you are mobbing person. I kill you. I take a medicine to have a better feeling with you, man. You made me a mobbing. I kill you in front of Christ with his Christ. This is my choice to have a better day. Kill you, bitch. You are a fucking mobbing. You are made my husband, my wives. Bitch, you I am making crazy. You. This is my this is my job, job. I want to kill all you motherfucker, cause I work so hard and my ass blood. This is my gun. This is my you're a fucking romantic feeling with you. No, I will not fuck it with you. No, what we can do with me, I just just a kill you, bitch, with my flow, with my rhyme. I'm a lyrical genius, I'm a criminal for my fault. Oh, you are the best with me. This is my gong. Hey, this is like an enemy in a speech. Maybe fucking bitch on the second turn for me. I'm a shady second person, just a word for lesson. You make me crazy with your lesson about life. This is my apology, but you are not me. You have not mine. Yeah. I'm not a hater, I'm a Gandhi, I'm a person. And I'm black power, I'm a black panther. Hip hop, R&B, feeling full, feeling sweet. And I'm a dragonfly. Doctor, you have a nightmare? This is not a nightmare. I come back in from the hell to kill you and your fucking cheapy ass. This is my stress. You can feed me now on my plate with the lyrics original. This is not a cheap imitation of the fuck. This is just my English, man. This is my rhyme I composed to make you understand. I'm a genius lyrical. Baby, I'm feeling to argue with you. You can't understand my rhyme, my thought, my crime. Some people think it's my mind. It's like a crime, just a breath in the skies. In the behind, I just made a baptismal limbo. I just stole with the dead person in this era. And I'm Akira. I kill you. You are just a. No, you're just a doctor. You can prescribe me a broad relief medicine for my feet, for my right to speak and understand. I just understand my freezing arm. My wife is crying for this rhyme. This is a lyrical. And I'm a funny person with a mic, fucking Nile, big like a two penis is my rent, like a sword I cut your head to explain. You are not myself. Oh, we have a different feeling, different meaning, different past. It's not the same story of you, my class. Is that I am the top of the And I'm going to explain what is a cowboy over a dragonfly, yeah? Q-Tracks. Will I run? And I'm a no, I'm not a blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. I need my ass like a blood brave. You wanna make my ass, but I'm a cowboy space and my from the eye, my rhyme. I can't explain what I feel in this beginning, in this time. I'm just the eye of the game, of the rhyme. Thank you. trying to make me a lyric. You won't understand these pages. You can't understand my rages. This is a hard world of 20 years of lyrics. And God make me the attitude to make your eyes. And you don't understand my class. And I'm over Mercedes-Benz class now. This is my words, this is my rhyme. From the old mobile cars. And you understand what it is. This is just the rhyme turn over, rewind. I just can see with you and me in rewind feeling. You know that mind, bitch, but you can make a 93 degrees. This is silly things in Italian speech. Subuxone, oxycodone is my blood relief. I don't feel in pain with it. And you can prescribe me a medicine to my feeling cool. And I'm a cold. My Shangri-La. I just in a theater of imagination create Shangri-La. My Asgabar. I call it Asgabar, is the paradise of the angel babies. I can make it with my magic, you making crazies. I have a sword on my word, and you are not enough to run this track. You have another gas. Cause I'm a criminal. These are worth 400 songs before these songs. You are not enough to rock my word. I have a pencil of my button. I have a pencil of the Kiriko. I have a pencil of Salvador Dali. And I'm going crazy to make me Guggenheim and Mama Museum. You're not welcome in my house. Fuck you, go out. Or maybe enter me in a lyric. This is a word, is my knife from the dictionary. Try a word for me, my class. Bitch, you are not the class of my world speech now. Well, job. I'm a lyrical. This is a word for my bitch. I a pimp bear like a lady's wig. Stone Cold is a bitch. She's never wanna marry me. And I'm the excellent Italian painter in the world. Like the Chirico, I have not a word but a pencil to destroy you. Or maybe I can't understand how to explain my well. But it's right now describing this paint. You can pay enough. No. My class. cocaine overdose. Go overdose. The thing, the drugs, is the feeling of your talent. Explain you with my bass, with my right dance of attitude. This is my prostitute. I put his 9 degrees under on my feet. On now, the English I speak is like a cause I study in architecture school or Mendrisio. This is a class like Harvard. This is my why I go and spell it. I can explain you my this as well. It with my words I can tell you. Bullet, can I give a ballot for kill this bullet person? And now my bullshit, I kill you with my shit. Salvador Dali is good, but freaking you understand I don't mind. Thinking at your rhyme, thinking at your rhyme, I just celebrate your shit with my song. This is my spotter, cause I'm anarchic. My lyric, this my anarchy. In this track, I kill the bass like a killer. You are mass of me, na na na na na na na na na. You are sealer of me, yeah. I have a novel in my hands now. I just sing about everything, but I don't why. Cause I'm a lyrical genius, right? Write 1,000 pages of lyrics, kilometer of personal with my ink. I drop in your fucking head with my creases, with my thing. And you can't don't understand. You cannot understand. I just wanna talk about my speed. Everything around go lazy for me. Like in a time lapse, it's just everything stops around. When I shit through with my genius mind, when a genius crown. Cause I'm a king of flowers, babies. An Angelo in my hand. Left made you crazy. I'm just joking. I'm just walking with my paradise population. I just drive crazier nation with my rhymes. They don't think so understand me. They're supposed to don't understand me, but they listen my music with my magic thought. They listen my music with my magic color of my soul. This is why I dress like a Gucci, Shiva and Chicken. Giant pussy in my left feet. Just on the dance and send you back. You're in like a well person. Level up.

lost. Oh, my doctor say don't expect about a coconut. You are not a coconut, you're a fucking alien. Man, destroy this society with your hands. Write a lyric powerful like the power. Cause I'm the power, cause I'm the power. I'm a doctor, yeah, Dr. Dre. And doctor, I have a dream, cause I'm a co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co on your feet, bitch. And I'm a big tits on my face. Cause you want the energy can I feel. Surf for me, the wave has drive like an easy. The partial system of your blender made me crazy in my end. Oh, I don't understand, I don't understand. Well, but first, but now, my computer is my worst, is my worst. My mind goes in rewind now. This was my disease in first, but now I'm a rock and roll on my PC and I have a hacker logics. Hacker logics. Java script is my another question. Never fuck with you, bitch. But he's a genius and his speech is like a big crime. His speech is a crime. My bitch is a claim, bitch. This is my sorry, I forgot I have a porno in my PC. Cause you are not here. Cause you my porno, but then you are here. We are married. Is my holy things. Adesso sì. adesso parliamo bene. Fanculo ti farei leccare l'imene da un coccodrillo così abbastanza grosso. No, questo frate non è il tuo cazzo, è colpo grosso. Sei in missione per conto di un alieno, anzi di Dio, e se li mettiamo insieme facciamo Anunnaki. Fin cancellati, troppe verità noi consumati. Oh, il Covid non è soltanto un virus, l'RNA replica e muta, non troverete mai la cura, inutile che provate, quindi dottoressa stai muta. Io posso guidare quella macchina con a fianco una prostituta e magari metterla dietro nel bagagliaio e farci con un colpo di pistola d'acciaio un buco tipo... Sono il tipo che va giusto per lei, non mi dire che vorresti volare verso gli Emirei. Sono il tipo che vorresti aggredire ma non hai il coraggio di tradire. Sono il coraggio di dire. Sono la parola che diventa musica, sono parola su una lirica. Ma la parola non è solo parola, diventa flow quando esplode l'emozione. La via, via, via, via, polizia, via, via. Non mettiamo microspie nelle gambe delle persone, non registriamogli ogni cazzo di parola che fanno, ogni cognome. This is a tear songs. If you want run away from me, maybe you are lost. Breccia, breccia, piscia a letto fino ai 13, poi ho imparato medicina a bloccare la costituzione debole, oggi siamo 113, unità di personalità fondamentale per la nazione. Io cazzo sono un pensiero illogico per lei, io sono la sua soluzione, ma lei è la mia dannazione. Attenzione, attenzione, di parlare di fatti tuoi in privato, sono il tuo avvocato, ti prescrivo un attentato, prof, sei un po' uno sfigato, non hai mica il talento per scrivere su un foglio il tuo giudizio, il tuo orgoglio. Going back like a space cowboy now on a dragonfly, I'm at your ass. My talent well it's not a talent show cause you tell. This is my dream, my phone ad. You are telepathy with me, you can say yes no and I'm a yes man. Dream, my dream. I'm gonna tell, yes, you my dream, my call to you, my call to her, my call to him. To react the flag of the second hour, now it's the third hour of my radar. Oh, the sun team tell me now, what? Now I go have a talent, but not for talent show, but it's talent show. It's not a talent show, but it's talent show. You cannot understand all my CD, and your legs is broken. You like a hit, strut team like a hit, bam bam like a hit, cross him. I write all bullet, the France bullshit against me, but my pen write like a blood noble person. I am the rot or I'm the voice that throats me. Buzzy, Andy, Andy, I may go make you increases. My voice, my lyrics. Now, and my boss, you sound more lucky, you can understand, bitch. Rhyme! I chose rhyme, not reason, rhyme. Crime. This is my voice, this is my surfer rocks. This is my voice, this is my talent show. Oh, but now me. Oh, please, silence your voice. You're a criminal in your house with your lyric, with your voice. Oh, some people think my voice is a gun. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Anzi sono tuo, pa-pa-pa-pa-pa-pa. Maybe in Italian is better for the Italian. Oh, non ho mai fatto l'alieno, non sono un tipo sereno. Io punto al mito, ti punto il dito, ti punto un mitra. Di parole un arsenale, metriche squallore nella mia mano. Preparo un cucchiaio con tutta la truppa, pieno della tua zuppa. Oh, come mulier malato immaginario. Sono un malato immaginario. Sono in cura da uno psichiatra. Sono in cura da Sinatra. Sono in cura da... Ah. Relax a little now, make your tea out now. Make your tea out now. Roll a joint with a legal weed, CBD can relax better than THC. That can make you a little paranoid. THC, that may give you a little paranoid. My ring ring. And wait, the answer, my message. Think that you can't not answer with me. I come to your house and kill you, beef. Mediocre now. Mediocre now. Meta fucking crazy fuck with melody now. You are his melody. I kill you, bitch. You can't forget my tattoo. This This is a tree perfect. This is my crazy tree. And you say less than tree perfect. Ci eravamo quasi, insomma. Meglio Cina. Relax a little bit in your crown. Mondo, mondo, mondo, mondo, fango. Ha un brutto passato, 20 anni di analisi non l'hanno cambiato, ma l'hanno reso un liricamente tutto malato. Mondo fango. C'è grossa criminalità in questa lirica? Nah. C'è grossa pericolosità in questa minga? Nah, è solo musica. È solo musica. È solo musica. It's just a music night, bitch. Why don't you like my music? It's just a music, it's not a crime. But you can tell all your mind, all your want, all your crime. I go with a trans bitch. She say she's not ever dick. She made me a punk. She made me a sex with dog. My old dog, my pit bull. My boxer. È stato rapito. Frate, non ti ho capito. Frate, non ti ho capito. Meglio così riscolterai il disco. Ah, questo disco sarà l'ennesimo fischio. L'ennesimo fischio. L'ennesimo fischio. Questo disco sarà l'ennesimo fischio. L'ennesimo fischio. L'ennesimo fischio. Io faccio il rap perché protesta, che ti molesta la base che la incesta. Come un caracca parezza, vado avanti tipo cresta, alta bestia, panca bestia come mio padre. Non ha la cresta ma le palle per farlo, quindi taci. Rieccoci, ha parlato di nuovo di suo padre. Non voleva lodare, lo voleva lodare. Non è un criminale, stacci piano, vacci piano. Io su questa base sono Slim Shady, vado più veloce di un aeroplano. Come gue, faccio talmente flow, talmente swag, che lo swag si gira e dice tacite. Chi si piscia a letto? E chi si piscia a letto? Tu credi sia un difetto invece? È il modo in cui io sono un boss. C'è presente Chris Cross in sedia a rotelle, te la spacco addosso tipo una Molotov. Guidiamo una Rolls Royce di fianco una Bugatti Veyron con sopra 50. Vi faccio a fette, vi faccio 50 pezzi, anzi 50 pieces. Anzi ti mando in crisis, anzi ti faccio tanto di quello swag su questa base che quando smette il disco dici porco Dio era in fase. Oh, non si dicono parolacce su una traccia. Questo tipo pensa che possa fare breccia, lasciare un segno, magari I go down in history come Shady. I go in crazy weed. Oui? Qualcuno ha parlato di weed? Ah, roll a joint legal or illegal? Joint legal or illegal? This is the question. Like Shakespeare rule a poetry, dancing. La mia metrica è così densa che quando smetto si gira tutto il quartiere. Tutto il quartiere mi fa, uè, bello come stai? Come un mito cerca guai. Io parlo di nomi rap qua a caso tipo Wonderland. Siete miei amici immaginari, che ne sapete, che ne sapete. Beh, facciamo una partita golf. Anzi, Molotov si ispirano a me per fare Sivir, per fare Nash, Paul e Steve McQueen. Steve McQueen. Per un mio amico sono Steve McQueen, più di Steve McQueen, solo che non mi è stata data l'opportunity. L'opportunity. Frate, sono Trinity, come mi fra, nel nome del padre, del padre, del padre, del padre, del figlio, del figlio, del figlio, del figlio, dello Spirito Santo, santo come un arsenale. Frate, io sono il canto pasquale nelle chiese. La gente si chiede se son ancora matto e handicappato dopo quanto mi hanno pregato, mi hanno miracolato. Oh, non dirti, oh, anzi sì, sai perché il miracolo avviene. Hai detto le parole giuste, lei sviene. Ma mamma go holy, this bitch go holy, holy, holy. Tanto che Ollie e Benji sembrano aver tirato due calci a CSI. Oui, oui, oui. Cocorico, anzi andiamo al cocorico, cocorico, al billionaire da briatore. La grego, racci, la faccio a pezzi, la faccio a stracci, un sacco la metto. Anzi la faccio talmente VIP e queen che diranno non c'è difetto. Tipo plastica al petto, tipo plastica al petto, pallottola al petto. C'ho una tipa che è una necromante, mi risuscita tipo gigante. Oh, è una guest. Bitch, bitch, bitch. Ma io la chiamo Lady. A 22, 23, non si sa quanto anni, ma vedi, è già una donna più di te, fedele come me. Noi siamo disgiunti soltanto da un pazzo che si metterà in mezzo, verrà condotto dalla polizia e dall'ambulanza in psichiatria, perché solo un pazzo si può mettere in mezzo e uscirne illeso. Oh, tu sei, oh, come me, ma non è la stessa cosa essere come me, nella stessa maniera, non è un celebro leso. Io sono un genio incompreso, tipo Willy Hunting. Cazzo parli, cazzo parli, cazzo parli. Sono un genio incompreso, tipo Willy Hunting, Willy Hunting, Willy Hunting. Facciamo chi memorizza più testi. Se vuoi, ti metto in crisi, tipo Joyce, tipo Joyce, tipo Joyce. Questo è flusso di coscienza, man. Well, job, fucking I understand my head. Flusso di coscienza, chiamami pure Sgarbi. Questi non sono pagine, sono parole dada a caso, tipo dado tirato, esce sei diavolo rinato. Diavolo matto, diavolo matto, diavolo matto, io, Dio, a metà tra diavolo e Dio, io, mio, Dio, io, me, lui, è come pregarsi la Trinità vivente, io, in the center, me down, him up, this is the Trinity, your language of vision, brah. I want her wonder bra, I want her under bra, cut off. I just sleep peace, pussy bitch. Psycho criminal on the bass, on the race. I compose all the songs in an hour of freestyle. This is my Ferrari, this is my Bugatti, for a cut at mine, for my cash and mine. Can you give my freestyle on MTV, on our web radio, in my PC? There's a made for Harvard now. I speak like the between all the negative energy of the world is born a material, calling the present universe. You can say my notes, Harvard. It's not enough to understand me the best of you, or maybe it's just the simplicity of the right of my formula. Mathematics, right? But the idea is mine. I made you cry. Woo! Al lupo, chi ha gridato al lupo? Frate, non ho detto niente per tutto il disco tacciuto, ma vediamo un po' come si fa. Su questa base ciò che verrà è un po' così, freestyle, non sai mai quello che puoi dire di tutto. Puoi pure tacere per un po'. Oppure, poi boh, ripartire alla grande, tipo ti tolgo le mutande. No, sì dai, ti lascio parlare perché sei soltanto un verme. Codardo, non hai mica la capacità di dirmi che mi vuoi sposare. No, non può. Sì, fammi pensare. La mia lady non vuole far sapere il suo nome perché in fondo tu la vorrai rubare. Vuole trovare un angolo di privacy per me, per lei. Vorrei cantare più di un volo su verso gli Emirei. Magari facciamo un trucco al ceico, facciamo finta che ti vendo. Così io e te, cico, sono già ricco. Non ho bisogno dei tuoi soldi, non ho bisogno della tua merda. Sono ricco, gangsta, ricco, gangsta, ricco, gangsta. E questa è una colta bestia, panca, bestia, ascolta. Stavolta te ne stai zitto, ti do un buon motivo per smettere. Su questa base, ops, è giunto qualcuno nella mia mente, voleva parlare. This is a cultural fault. You can show my cultural notes and my poetry. Maybe better than pain, or the pain is for someone. Maybe better than this is a dada. Tiro e sparo parole come fibra, insomma. This is a dada. I understand all you, brother. For diseases are looking bizarre and weird. Cause understand all the gaps, shit you can understand better than me. But I understand how to flow it. How to flow it. My cultural pages, my cultural pages. And I'm a snob pages. I have to be paid like a skeleton. With you, I have a sex with my cultural dick. My cultural dick. It's not a zip dick. It's not a zip dick. And then kill you, bitch. It with me, Amy, Milio, and not Eminem, cause you a bitch and you are not talent like me. Na na na na na na na na. Infami che hanno un degree, io vi rispettavo, ma quindi se non rispettate me, non rispettate i Queen, né i King, né i Jack, né i Fanti, né i Jolly. Quindi nel rap non siete avanti, siete molli. Su una base voi non sapete voi distruggere sto beat. Io rimango qui come Moby Dick, con voi dentro tutti i shit. My penis, my penis. is the problem, oh shit. This is the shit on my school bullshit. A letto, chi si piscia a letto? Io ti porto nel letto anche se mi ci piscio dentro. Questa è perché tu riderai, ma non capirai mai cosa c'è nel mio intelletto, nel mio intelletto, nel mio intelletto, nel mio intelletto. Ti voglio distrutto in un letto psichiatrico, come ero io quando non capivo perché ero Dio. Ma io, capito, io. Universal mind, e dovrei piangere, lo sai, my universal mind, dovrei piangere, lo sai, my universal mind, dovrei piangere, my universal, someone talk about universal, my etiquette, now, you know I'm married in, anzi, you man, no, discussion, dialogue, and this is a shit, bullshit. You sembri Eminem, ma io sono smeggio sul beat. Te lo squarto, e non faccio mica un morto. Io vi faccio un reparto psichiatrico intero con i miei cloni. Ditegli pure che il Valium viene dai miei copioni. Menzionato qualcuno, si giri, non si è girato nessuno. Vedi, se sei qualcuno in questo mondo, hai contatti. Se non sei nessuno, beh, allora hai solo il talento. Questione che mi sta sul culo, questione che mi sta sul culo. Vorrei spostare qualche equilibrio politico e dire qualche nome, ma non sei nessuno senza un contratto. Non sei nessuno se non hai il contratto. Uno su un milione ha sia il contratto che il talento. Quindi stai attento a te, me. Oh yeah, us. And there's a question about my penis. Un pene grande come una nocciolina, ma quando va in rima, ci siamo capiti, quando va in rima, ci siamo capiti, quando va in autostima. 15 centimetri di nerchia che ti do sulla testa, bitch. Non è mica la misura che fa Steve McQueen. Rimango un boss sulla base, tu taci. Sei un inetto, sei rimasto tra il girone degli incapaci. Amami amore, forse per scoparti ho bisogno pure di un dottore. Cazzo dici? Ti faccio così tante cicatrici, mi sono dato addosso due mitragliatrici, dimmi. Oh, c'ho in testa 20 G, sono 2x10. C'ho in testa Frank che mi dice cazzo dici. È entrato in fase con me nella fase REM. Mi sono svegliato tipo su una base tipo Titan 3 come Gundam. Gioco con il Lego con la lingua, mentre lecco la... non si può dire, censuriamola questa. Faccio rimia bestia. Questo disco scuoterà tipo Earthquake tutta la festa. Testa baccata di chi voleva fare testa. Festa! Ah, e adesso voglio un cazzo di lavoro. Voglio lavorare, anzi no. Essere stipendiato, anzi no. Pagato 1.000.000 a quadro per ogni quadro in una galleria outsider. Come rock and roll rimango su mucchio selvaggio. Faccio tipo e peggio ucciderò Paolo Villaggio. Hai capito? Mi puoi mandare anche il tuo avvocato. Il mio ti fa il terzo dito. Perché ho patito più di un tot questa situazione in cui io c'ho la, c'avevo la pancia, bro. Ero forse ero un po' grasso, un po' messo male, un po' lercio. Mi sono ripulito, adesso ho un bel vestito Gucci firmato di tacci tutti. Questa è la mia brand, è il mio brand. Fango, è il mio brand. Meglio di Gucci nel bagno, chic, vesto firmato, fare un brand con in tasca il logo, un carro armato. Ho dentro un cingolato di piazza Tiananmen. Due cingolati di piazza Tiananmen, rivolta di uno studente contro la pace del mondo, per me è tutto. Taci, eri il bullo e il farabutto. Q-Tracks. Mito nell'era dei miti. Metti i vestiti. Io non vesto, io l'hip hop lo testo, anzi lo detesto. Ogni volta che trovo a farmi conti, per la prima volta con una canzone calpesto mine, ma la seconda volta è tipo un arsenale. La terza volta fra il mio linguaggio è colossale. Ho 10 o 20 in comunicazione, non è un'opinione, è la soluzione che esce dalla mia bocca tipo arsenale di guerra, tu scemo di guerra, mente catto tu, io genio liricamente tutto osceno, perché la mia oscenità è parlare di qualunque cosa mi esca dalla testa, ma sai, in realtà questo è quel motivo per cui in realtà la mente onesta, un punk a bestia. Gli occhiali fume, mi fumo un narghile, back pipe from bad dad, mentre Lau si suona il suo flauto, io mi faccio un giro con Mary e mi fumo tutto il crack di sto pianeta. Sono un altro tra l'alfa e l'omega, frate tu sei solo al beta di questa situazione. Io invece sono la versione Orion, anzi Onion. Piango. Lo coniugo così magari ti riesce facile capire che tutti hanno delle lacrime. Che tutti hanno delle lacrime. E non è mica che tu sei più figo perché non piangi, perché non tingi, perché non dipingi. Non è che sei più figo perché non piangi, perché non piangi, perché non piangi. È inutile fare miraggi se poi tiri shit contro la tua bitch. Ma non è questione di capirsi, ma quando crescerai vedrai, capirai. Quando crescerai vedrai, capirai che è meglio capirsi che poi dirsi addio. This is for fucking understand what I want for life. in due parole, cash me cash. Cash me cash. I just want cash me cash on the sex weather. Voglio essere un bravo padre di famiglia, quindi tirati via dalla mia due biglia, dalla mia mille miglia. Ci sono ancora troppi viaggi che mi devo fare con la mia testa in volo. Io scrivo meglio di Fabio Volo, di Fabio Volo, di Fabio Volo. Questo è il mio alloro, questo è il mio alloro, mica loro. Non lo possono dirmi ogni cosa? Attenzione, siamo una popolazione pericolosa. Oh, ho lavorato così tanto sulle mie liriche che era tipo stare in fabbrica a lavorare, tipo un tir che passa con un ubriaco e sterza contro il garray. Anzi Ray, anzi ho fatto flashlight to you my Ray. Base sconsolato. Il prof di filosofia mi guardava tipo: oh, ma chi sei Zarathustra rinato? Oh, ma chi sei Zarathustra rinato? Rinato. Io non ballo, io non ballo, io non ballo, well job. Io vado a Monte Carlo, Monte Carlo, Monte Carlo, un caos dentro che genera una stella che raglia, raglia. Voglio cash, raglia, coca e basta. Cash, Monte Carlo, coca e basta, coca e basta. Mica sta povertà, mica sta povertà a chiedere soldi ai miei. Ancora la mia mamma che mi sclera addosso perché non ho ancora tolto il pigiama. Perché non ho ancora tolto il pigiama. E non è mica un dramma, Però adesso vivo da 3 anni da solo. Ho fatto tante di quelle basi che a me sembra di prendere il volo. Con lei e te fatti da parte, fatti da parte, meglio così. Dicono che ciò che è mio non è bello come quello d'altri, forse i ricconi fanno più parti, anzi vorrei prendere parti, parti di parti, di parti, prendere le parti di quelli che fanno tanti parti, che hanno tanto cash. Sai perché vogliamo diventare tutti ricchi o no? Perché non te lo dice il bro che in realtà è amico ricco, che vorrebbe dargli soldi per la mia testa. Mettono taglie sulla mia testa, mettono taglie sulla mia testa, la mia cavaressa. E tango de suerte mi cico latino, tango de fango in destino. Lori te lo dico se il gioco diventa pericoloso. Na na na, io c'ho le palle bra. La mia donna è talmente cazzuta che starebbe con me anche se mi punti un bazooka. Un bazooka, un bazooka. La mia donna è tipo una gangsta, mica una che se ne va a metà della festa. Quando diventa pericolosa, roulette russa, roulette russa, roulette russa. Come ai tempi della scuola con i più giganti, io facevo roulette russa mettendo i dottori come guanti, come guanti. Passami la mucchina che devo fare un'operazione in tempo di Covid. Tu non sei mica Slim Shady, dicono. Mi taglierò e impianterò il cuore di quello lì, di quello lì, di quello lì. Ah, il campione Slim Shady, bro, campione. Vogliono sapere il mio parere su tutta la musica. Frate, dentro di me scorre di scegli ogni sua lirica. È per questo che su questa base tu diresti che ci assomiglio tanto. No, è un vanto, no, anzi Roberto Carlos, Roberto Baggio. Eppure il game non è fare due tiri a pallone, ma ogni mia parola sembra dentro sette, non è un'opinione, zero questione. Su questa base sono il migliore, ma non solo perché dico Monte K, dico Monte K e non è Monte K. Microphone MC, microphone messaggero della dopa, rimango qui, John Travolta. Travoltami, anzi travolgimi. This is a love against the fluid for her. Come no, sei meglio te, oh. Come no, ad amare no. Tu non sai, c'hai mille guai, no. Non ti tira più, non lo sai, non lo sai, non lo sai, no. Oh, oh. Oh, su questa base penso che verrò alla fine. Cazzo, ci avrò così tante vibe alla fine che lei vorrà generare con me endorfine. Su dopamine, su dopamine. Sono Superman per lei, il gangsta più bello. Volerò con lei le mirelle, lo farò dentro il cesso. Dentro al cesso. Frate, come on, and sing with me and made a band with me. Oppure stai zitto e no discussione. Come on, and sing with me. Everybody who ever cry love me. My population is high. The cash. For employment is down, but she's one high. Is down, but she's one night. Cause Aziz a lover and one man. Maybe have a baby to go to school. Oh, I wanna cash for my future baby to go to school. Like a good man. Like a good man. And I'm a lover. And I'm a shady lover, if you don't understand. Shady lover, I'm a shady lover, bitch. Rich, I'm a shady lover, I'm a gangster. And my pen is my gun. And my rhyme is my reason. And my love is my art for arm. Me, mine, me. I love you, me. I love you.